Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 10 e 7 minuti, buona domenica da Stefano Gallarini. Il microfono ha voluto rimanere chiuso questa mattina, vabbè, si è svegliato anche lui, meno male. Ha fatto un po' di riposo del guerriero. 10 e 7 minuti per questa domenica, dove parleremo di, ve lo dico tra poco, prima come sempre gli annunci, no? Nel senso, quelli che sono le notizie che devono essere date assolutamente all'inizio di ogni programma, cioè la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere in libri digitali oppure cartacei, se riuscite a risolvere il nostro mistero in 24 minuti, la comunicazione di servizio che vi serve per capire che alle 11.30 giocheremo anche questa settimana. La risposta del mistero può essere sempre una delle notizie della settimana oppure un personaggio, qualcosa di molto conosciuto. Per risolverlo dovrete ascoltare degli indizi musicali. Il primo indizio di questa settimana, eccolo qua. Che freddo fa. Tra l'altro anche se è una canzone di molto tempo fa, devo dire che i ragazzi più giovani riescono ancora a cantarla, la conoscono perfettamente, quindi mi fa anche piacere che il passato torni anche nel presente. Questo è il primo indizio per giocare il numero verde, potete prenotarvi fin da adesso, 800 24 00 24. E parliamo invece della puntata di oggi, dove cerchiamo di capire se la vita funziona meglio in due oppure funziona meglio da soli. Cercheremo di capire come funzionano le coppie, ma non necessariamente le coppie di persone che che vivono sotto lo stesso tetto, che sono sposate o che comunque convivono, ma le coppie anche di amici, le coppie di persone che trovano che la vita in due sia più serena, più felice e capace di offrire di più, oppure quelli che decidono di star da soli perché almeno non hanno nessuno tra le scatole a rovinare magari i piani che si hanno in testa. Di questo parliamo e siccome parliamo di coppia, ho pensato per iniziare a questa canzone di Raff. Allora proverò ad uscire, stasera io ti trovo. questa frase non so perché la trovo baglionesca, cioè assomiglia un po' a una frase che avrei voluto cantare i Baglioni, ma invece è Raf con un bellissimo testo di Cheope. Due appunto, in due hanno fatto tutto, però lui è rimasto da solo e c'è rimasto anche male. Siamo in due anche oggi, c'è Tommaso Labranca. Ciao Tommaso, buongiorno, benvenuto. Ciao Stefano, grazie. Grazie di essere qui. Ma figurati. Io ti ho ospitato perché... A te le coppie piacciono. Ma per niente. Non parlo di te, ma in genere coppie da guardare. Ah, piacciono, da guardare, certo. Da analizzare. Sei certo, un osservatore di coppie anche. Assolutamente. Ecco. Le coppie sono sai quando si dice Dio li fa e poi la coppia. Certo, quello è forse l'unico proverbio in cui io credo e che considero veramente anche reale. I cani Dio li fa e poi li accoppia, i cani con i padroni, no? Hai mai notato? Cioè già Walt Disney nella carica dei 101 si era divertito a disegnare cani e padroni nello stesso modo. Sì, no? Però ti assicuro che se tu vai in un centro commerciale, sì, e ti siedi e guardi un po' le coppie che passano, beh, dici, ma veramente come hanno fatto a trovarsi? No, ma secondo te si trovano oppure si adattano uno all'altro e quindi uno prende un po' da uno e l'altro dall'altro, no? Quindi alla fine poi si assomigliano automaticamente, non allora, subito così. Possono essere entrambe le, sì, cose, nel senso che se la coppia è già un po' rodata, un po' avanti con gli anni, naturalmente c'è stata l'osmosi. Invece se la coppia, che sono quelle che nuova, preferisco, quella nuova, sì, no? Non lo so, evidentemente c'è comunque sempre dei segnali, dei tratti identificativi comuni nelle generazioni, per cui se lui ha il tatuagione, lei ce l'ha anche, se lui ha... il culone, lei ce l'ha anche, cioè si assomigliano molto anche fisicamente, tant'è che diventano a un certo punto indistinguibili. C'è una specie di bisessualità vestitiva, sì, in giro, per, sì, cui sono molto simili anche nell'abbigliamento, ma non quella degli anni 60 dei capelloni per cui tutti avevano i capelli lunghi, no, hanno pettinature diverse, però hanno comunque alla base un comportamento unico che poi li porta anche ad unirsi, perché dicono, ecco, ho trovato quello della mia specie, portiamo avanti la specie. E io sono terrorizzato soprattutto poi dalla prole che nascerà da queste coppie. Che saranno simili, tu dici, alla fine, a loro, no, o magari no, non è beh, detto. Poi diventeranno qualcos'altro, naturalmente, sì, come loro sono diversi dai, certo, loro genitori. Sì. Sarà, non voglio sembrare antipatico, sarà un nuovo orrore che si presenta. magari no, scusa, non è così, ecco, poi... Non lo so, forse sai cos'è? Che noi non ci accorgiamo mai delle cose brutte mentre le viviamo. Per cui 30 anni dopo diciamo, ma ti ricordi i paninari con quei capelli orrendi che portavano, corti davanti e lunghi dietro? Ma al momento non ci sembrano brutti. Anzi, ecco, guai quindi, a non avere i capelli così. Esatto, certo, quindi senso. Oggi che vediamo questi con i bananoni, io, sì, faccio purtroppo, non è invidia se parlo di capelli, ma tutti questi ragazzi col bananone tipo bambino degli anni 40, che ci sembrano normali, beh, aspettiamo 20 anni e rideremo. E ma è un po' un ritorno negli anni 50, scusami, la banana. Banana. Sì, certo, cioè, è un po' diversa però, insomma, è una banana rivisitata. È diciamo una banana così. OGM. Esatto, le 10:16, aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Intanto vi ricordo anche il numero per gli sms, non l'ho dato ma vedo che già arrivano, 349-238-6666. Prima di parlare della coppia della settimana, perché c'è una coppia della settimana. Ogni settimana c'è una coppia. No, ma ho pensato che la coppia della settimana è questa, è la Camusso con Squinzi. Ah beh, veramente una coppia difficile. Difficile, però sai che lui ha anche apprezzato molte cose dette dalla Camusso, però ecco, l'abbigliamento per esempio non li fa assomigliare minimamente. L'abbiamo appena vista, esatto, la Camusso in TV, quello, sì, canottiera modello camionista. Sai, questo è un consiglio a tutti voi, se volete mangiare bene fermatevi dove si ferma la Camusso, perché è una garanzia praticamente. Potrebbe essere la guida. La guida Camusso, il Camusin. Intanto, visto che parliamo di cibo, in qualche modo parliamo di gelati. C'è Guido Martinetti al telefono. Guido, buona domenica, grazie. Sì, buongiorno a tutti. Ecco, Guido insieme a Federico Grom, insomma lo sapete, hanno fondato le gelaterie Grom. Ormai sei dappertutto, Guido, ti vediamo intervistato, ma sai perché? Perché cambiate canale. No, figurati, ma perché rappresentate un po' il sogno di tutti, cioè il fatto di costruire qualcosa insieme a una persona, e di questo oggi infatti parleremo, qualcosa che poi si trasforma in un vero successo, un successo internazionale, e quindi insomma è il piacere di capire che le cose possono, è un po' il sogno americano italiano diciamo in qualche modo, no Guido? Sì, un piccolo sogno, perché poi bisogna anche dare una dimensione oggettiva alle cose, però certamente due ragazzi che partono da zero lavorando insieme al posto che andare ai centri commerciali a osservare le altre coppie Della domenica, insomma, creano un'impresa, ecco, un'impresa che comunque oggi conta centinaia e centinaia di persone. Avete visto la vostra coppia? Hai detto nel libro, perché di questo parliamo, avete pubblicato un libro, sentito l'amicizia. E... Sì, no, il libro si chiama Grom, storia di un'amicizia, qualche gelato e molti fiori. E però, come hai giustamente richiamato tu, l'incipit, al di là della parola Grom, è proprio storia di un'amicizia, e quindi di una coppia, in qualche modo, una coppia bianca, tra virgolette, nel senso che una coppia di amici che sanno lavorare insieme, e forse anche il non fare sesso facilita la vita di coppia. Eh sì, vi ha aiutato, perché in questo modo, esatto, ognuno per la sua strada, da questo punto di vista, esatto, non vi potete recriminare nulla, ecco. No, assolutamente. Esatto. E anche i tradimenti non contano, no? Perché non esatto, sono tali. Anzi, il contrario, siamo felici. Servono. Uno come dire, Federico, per esempio, ha una vita sentimentale molto stabile, io sono felicissimo per lui, anche perché prima citavate i valori della famiglia, sì, un valore nel quale io credo moltissimo, ma moltissimo davvero, perché poi effettivamente i bambini e gli adulti del domani dipendono in buona parte dai genitori, quindi quella è la coppia per eccellenza, la coppia dei genitori che altrettanto lavorano a un progetto comune, esattamente come abbiamo fatto io e Federico. Funziona nello stesso modo, questo per dire che in fondo la coppia proprio non ha limiti, ecco, quando si parla di coppia, chissà perché, Tommaso, puoi benissimo intervenire, no, perché c'è Tommaso Labranca di fronte a me, mi sta guardando. Sono felice di sentire la voce dell'uomo che ha insegnato agli italiani a essere pazienti, perché l'italiano è sempre nervoso in sì, coda, in fila, la posta, urla, quando fa la fila da Grom invece no, è lì paziente fin sul marciapiede, aspetta come davanti alle panetterie russe, complimenti. Dice, ma chi è questo uomo che ha insegnato la pazienza? Cioè, ci sarà qualche altro ospite? No, eri tu, questo è... Grazie. Ribadisco, perché torniamo all'inizio, no? Siccome c'è apprezzamento verso quello che avete fatto, è un po' di invidia, ma invidia buona, in questo senso, quindi c'è anche il rispetto della regola automaticamente, perché se tu apprezzi qualcuno che ha fatto qualcosa, apprezzi anche le regole che in qualche modo sono imposte. Adesso voglio dire, la coda in un negozio è una regola e la fai più volentieri perché apprezzi il locale dove sei in quel momento, sai chi l'ha creato, eccetera, no? Sono d'accordissimo ed è una cosa che mi sta molto a cuore, nel senso che oggi viviamo un momento difficilissimo ed è esattamente così, cioè nell'essere umano, un essere sociale, e come tale si fa influenzare da chi ha in qualche modo intorno. Allora, se tutti pagano le tasse e tu non le paghi, sei un ladro. Se tutti non le pagano e tu le paghi, sei un deficiente. Allora, è uno spunto banale, semplice, però effettivamente il concetto di piccole situazioni virtuose, anche solo fare la coda in modo educato, in qualche modo è quello a cui dobbiamo guardare se un domani desideriamo vivere in un paese civile. Se desideriamo vivere invece all'arrembaggio e quindi... mos tua vita mea è tutto un altro discorso, e spero nel piccolo delle nostre code pazienti, come diceva Tommaso, insomma, che così anche quello sia una stupidaggine piccolissima, però in qualche modo un segno di civiltà che ci può sempre essere, perché poi l'italiano non è che sia noto per la sua tolleranza e ordine nel fare la coda, insomma. Federico, volevo chiedere una cosa, ma non litigate veramente mai, neanche quando dovete decidere i gusti? Cioè, ma si criticheranno, no, ma fate la gara, chi sceglie le guarda, cose? Guarda, pochissimo. Mai. No, guarda, no, in realtà la nostra fortuna, nel libro è citato un aforisma di Nureyev che trovo fantastico e che dice: l'amicizia, come l'amore, richiede quasi altrettanta arte quanto un passo di danza ben riuscito. Allora, davvero il concetto è ballare insieme. Naturalmente, se si parla di comunicazione, di ricette, di prodotto, sono io che conduco la coppia. Sì. Se si parla di finanze, di amministrazione, di contabilità e di commerciale, è Federico che la conduce. Quando poi al contrario ci sono come dire, delle decisioni strategiche importanti per l'azienda, discutiamo anche in modo animato, perché ci crediamo in qualche modo in ciò che stiamo dicendo, ma sappiamo lavorare insieme, cioè ne discutiamo, poi abbandoniamo a un certo punto, se rimaniamo distanti nelle rispettive posizioni, quanto stiamo dicendo e lo riprendiamo. E alla fine uno dei due si convince dell'idea dell'altro. E poi al limite, se proprio uno deve avere l'ultima parola, a seconda del campo di appartenenza, c'era Federico, io, però non accade praticamente mai, normalmente ci convinciamo. Ecco, non vi tirate mai il gelato in faccia, ecco, per dire, no, ho ragione io. Cioè. No, anche perché nel libro dite senza passione non si combina nulla, ed è vero, la passione poi si fa animare quando si discute, è proprio quello, no, che fa sì, animare. Esatto. Tu nel libro... sempre danzando insieme, certo. Anche perché, esatto, l'importante è essere convinti tutti e due di voler ballare la stessa musica. Il tango è il vostro ballo, no? Sai che nel tango c'è sempre una persona che conduce, normalmente l'uomo, però nel vostro caso vi alternate, e l'altra persona che un po' si lascia completamente andare, quindi funziona un po' così. Stefano, devi sapere, lo saprai benissimo, che loro in gelateria hanno queste tabelle con i matrimoni tra i gusti. Giusto. Ecco, io ogni volta mi sento le soddisfazioni, Tommaso. No, perché c'entra nel discorso di oggi. No, scusa Federico, cioè io la cosa che faccio a mezzanotte del primo di ogni mese è andare a vedere subito il gusto del mese su internet, che poi mando i messaggi a tutti quelli che conosco. Ma io quando sono in gelateria poi vedo il limone e single, mi ci riconosco e piango, e prendo sempre il limone perché sono lì da solo con il limone in mano, cioè. Perché il limone single? Dai, spiegamelo, è una mia curiosità. Ma guarda, molto volentieri, perché il limone ha un'acidità notevole, evidentemente. Come me? Esatto, beh, è anche acuto il limone, però è anche piuttosto simpatico. E poi è puro, cioè è bianco, è cristallino, cioè, quindi è un gusto difficile, però in assoluto più rinfrescante. È un gusto di difficile abbinamento. Il classico, no, dei bambini della nostra infanzia. Il limone infanzia, cioccolato, dice, limone... Ma limone cioccolato o limone fragola, fragola, sì, bravo. Ritengo che invece l'acidità del limone vada a svilire l'aromaticità della fragola. Poi non voglio farla troppo lunga, per carità, però quando mi ero lì, dicevo, ma il limone con chi lo faccio sposare? Io ho detto, ma io il limone lo lascio da solo. Sì. Il limone single come Tommaso. C'è sempre qualcuno che può... Ma certo. Guido, tu nel libro scrivi che le gambe ti mancavano, le gambe solide. Quindi un'amicizia, secondo te, riesce anche a rafforzare qualcosa dell'anima che non funziona prima? Per me è stato totalmente così, nel senso che quando abbiamo iniziato con Grom io ero un bamboccio, per dirla alla Padova Schioppa, e davvero non avevo la struttura, direi, caratteriale per fare impresa e per faticare con determinazione, come poi è successo. Per me Federico è stato un esempio. Io diciamo, sono figlio di genitori separati, e Federico in qualche modo è stato veramente un punto di riferimento per me sotto questi profili della determinazione, della serietà, del senso di responsabilità. Io spero di aver restituito a lui una sensibilità che forse un pochino gli mancava, e così un animo magari più generoso. Però ecco, è stata esattamente così, la fortuna per osmosi di dare uno all'altro sia aspetti caratteriali che aspetti professionali. Per me prima la partita IVA era una partita di calcio, ecco, tanto per capirci. Federico mi ha spiegato che in realtà l'IVA era tutt'altro, e insomma, e mi ha fatto crescere da diversi punti di vista. Altrettanto Federico non è che fosse un grande esperto di agricoltura materiale, che poi è la base del nostro successo, certo. Tra l'altro grazie Guido Martinetti per come riesci a trasmetterci le cose, perché la passione si sente sempre ogni volta che vieni intervistato da chiunque, perché appunto ti ho visto spesso, ma mi fa sempre molto piacere ascoltarti e ascoltarvi, perché attraverso di te si sente anche Federico, e grazie per Grom, storia di un'amicizia, qualche gelato e molti fiori. La prossima volta ti chiamerò per farci raccontare dei fiori. Molto volentieri, in bocca al lupo a voi, e spero davvero insistiate molto sul concetto di rispetto tra un papà e una mamma, che è quello che mi personalmente, sinceramente, mi sta più a cuore per il futuro, così, del paese in un certo senso. Toccheremo anche quell'argomento sicuramente. Grazie ancora, grazie Guido Martinetti per la disponibilità. Grazie. Buona domenica. Buon lavoro. Fermiamo per la pubblicità e poi altri ospiti e Tommaso Labranca, che su quest'ultima frase, quale? Di Guido Martinetti, questo fatto, il papà, la mamma, il rispetto, eccetera, vorrei che tu poi dicessi la tua, ma dopo. Ah, volentieri, comincio a prepararmi. Bravo, hai 2 minuti per pensarci. Il riposo del guerriero. Meglio soli o accompagnati? Questa è la puntata di oggi, a quanto pare meglio accompagnati, così ci ha raccontato Guido Martinetti, che insieme a Federico Grom ha avuto l'idea dei gelati Grom, che tutti sicuramente conoscete. Vi dico il numero per giocare alle 11.30 al mistero in 24 minuti, 1000 euro per voi da spendere in libri digitali o cartacei, il numero verde 800 24 00 24. E con me oggi c'è ospite Tommaso Labranca, che è un grande osservatore di coppie, ma un grande single in realtà, vero? Tu sei un solitario. Isolazionista. Un isolazionista, esatto, scusami, isolazionista. Non volevo offenderti. No, perché il solitario è, prima di tutto, un diamante, no? È la sua accezione migliore. Poi il solitario è uno che... non so, viene isolato, sceglie di essere anche un po' da solo. Sì. L'isolazionista invece viene isolato e a quel punto gode dell'essere isolato. Certo, ho capito. Cioè, se uno è isolazionista è per colpa degli altri. Ah, quindi tu pensi, non è una tua scelta, quindi? No, è una triste realtà. Quindi non sei un limone, perché il limone è così, perché è così, ecco. Invece tu non saresti così se non fosse per colpa degli altri. Diciamo che sono nato cedro. E poi sono diventato limone. Allora, prima di sentire la nostra prossima ospite, alla quale chiedo di avere un attimo di pazienza, e volevo tu così, se avevi qualcosa da ribadire o a Guido Martinetti che quando ha detto... Beh, naturalmente, cioè, i bambini poi, sai, vedono gli altri, dicono cioè, il papà e la mamma, però io mi ricordo sempre della piccola Francesca Guadagno che in piange il telefono si lamentava, che tutti a scuola avevano due firme sul diario e invece lei no, ne aveva solo una, quella della mamma. Per cui vedi, tutta questa cultura poi ti porta a far sentire il bambino diverso se ha soltanto un genitore, se non ne ha proprio, non ne parliamo, oppure se ne ha tre o quattro, perché poi sai, con i divorzi i genitori possono anche aumentare. Che dire, sì, ha ragione, però io sono sempre stato dalla parte del kibbutz. Per me è l'unica soluzione per l'umanità è il kibbutz. Sai benissimo, no? Il kibbutz, questa struttura anche agricola, no? Israeliana, in cui i bambini vengono allevati collettivamente, cioè non hai un papà e una mamma di riferimento. In questo modo non nascono neanche poi quelle cose del tipo il mio papà è migliore del tuo, la mia mamma più tette della tua, e tutte queste gare che fanno i bambini continuamente. Certo, poi non lo so, io non ho figli, quindi non so come avrebbero, per fortuna, perché immagino un altro Labranca che si riproduce e gira per il mondo, cioè, già uno è abbastanza, due sarebbero una maledizione. Però se ne avessi avuto uno mi sarebbe piaciuto essere soltanto io e lui, o io e lei se fosse stata una bambina, cioè non condividerlo con un'altra persona. Sono molto egoista, oltre che acido come i limoni, però è così, come io vedo sempre il rapporto come maestro e allievo. Sì. Cioè, io ti insegno quello che sono, non dar retta a quello che dice la mamma. Ecco, la mamma è servita soltanto biologicamente per metterti al mondo e basta, adesso ci penso io a te. Per cui io spesso penso, mi sarebbe piaciuto adottare. Ma poi i single non possono adottare. In Italia non si può, neanche se è maggiorenne. Sì, ma maggiorenne è già formato. Sì, cioè, un maggiorenne puoi adottarlo, ma dici no, voglio adottare prima che sono una bambina di 6 mesi. Sì, chiaro, non si può. Questo è un altro. Sarebbe argomento. Una bambina triste comunque. Quindi meglio di no, tu dici. Sai, pianoforte dai 3 anni, tedesco dai 5, cioè sarebbe una vita un po' dura e difficile. Francesca Serafini, buona domenica. Buona domenica, buongiorno. Allora Francesca, oltre che storica della lingua italiana, è stata anche story editor, sceneggiatrice, script editor di tante serie televisive. E Francesca, a parte il libro, poi parliamo anche di quello, è un libro molto curioso sulla punteggiatura. Io volevo chiederti, quando si scrive la sceneggiatura di una serie e quando bisogna quindi identificare i caratteri che si esprimono attraverso appunto i dialoghi, come si fa a costruire un carattere solitario, cioè quali sono quindi gli elementi, come è chiamato, isolazionista, ecco, come diceva Tommaso Labranca, o quali sono invece i caratteri, il carattere anche della persona che assolutamente ha bisogno di stare con gli altri, sia da un punto di vista affettivo sia da un punto di vista lavorativo. Sì, mentre Tommaso Labranca parlava mi veniva in mente un personaggio di una delle serie che ho scritto per qualche anno, che era La Squadra, il poliziesco ambientato a Napoli, dove l'antagonista della squadra, tutti i personaggi avevano una voglia di stare con gli altri, di condividere con gli altri, e poi c'era quello che potremmo chiamare l'isolazionista, riprendendo il termine usato da Tommaso Labranca, che era il commissario Pettenella, il quale inizialmente viene isolato perché ha questo carattere acido, per prendere di nuovo il termine dalla branca, ma poi a un certo punto gode di questa posizione di isolato e comincia a giocarci sopra, per cui fa proprio l'alter ego, diciamo, della squadra. E mentre Tommaso parlava, mi sono ricordata di una battuta che a un certo punto lui dice: stanno lì tutti quanti alla fine di un'indagine a festeggiare la risoluzione positiva, e lui dice: va bene, adesso ne vado a parlare con la persona con cui riesco a stare meglio, e tutti si chiedono chi è, perché gli sembra strano che ci sia qualcuno con cui lui sta bene. Dice: naturalmente me stesso, e se ne va nel suo ufficio da solo, che è l'unica persona con cui sta bene. È vero, Francesca, guarda, mi riconosco molto. Io non avrei neanche festeggiato. Tu sai che io sono un... No, non lo sai, però io sono un paradiso del monoparty. Cioè io a Capodanno ecco, faccio il monoparty. Guarda, veramente era anche lui il monoparty. Ma il problema, sai, il monoparty è bellissimo. Tu ti metti in abito da sera, stai a casa. L'unico problema è che non puoi fare il trenino. A mezzanotte non puoi fare il trenino con disco samba, perché da solo come fai? Per sempre farò davanti allo specchio, come il brindisi, no? Così fai un cin cin con un altro bicchiere. Il brindisi, anche se bene, sempre ma tuo, il trenino davanti allo specchio dici: no, basta, spegni la luce del letto. Senti, Francesca, tu non conoscevi Tommaso, quindi quando hai costruito questo personaggio, ovviamente. Non l'hai chiamato per dire: ma tu... Lo conosco da molto tempo e la stimo da molto tempo, purtroppo non di persona, esatto, ma insomma, attraverso le cose che ho scritto però no, non mi sono ispirata a lui. Esatto, è quello che volevo dire. Anche magari, perché devo dire che quando ho cominciato a scriverlo, Pettinella già esisteva, perché nella lunga serialità, come forse molti sanno, si lavora in equipe, e spesso un personaggio passa da una penna all'altra, per cui non, purtroppo mi piacerebbe molto averlo inventato io, ma non esisteva già. Ecco, Francesca, nell'ideazione dei personaggi, secondo te quali sono i punti di forza di un isolazionista, ormai lo chiamiamo così, e i punti di forza invece di chi sa e vuole, anzi riesce a lavorare solo in squadra ma non da solo? Guardi, secondo me la cosa interessante è l'evoluzione e il cambiamento che questi personaggi possono offrire, non il cambiamento nel senso di redenzione, per carità. Un personaggio antipatico o solitario è bene che rimanga così per sempre, perché le persone rimangono così, cioè possono variare il loro atteggiamento a seconda della situazione, ma cambiamenti radicali non esistono mai nella vita. Però l'opportunità che offre questa forma moderna di racconto della lunga serialità permette di non stare fermi nei caratteri del personaggio come se fossero delle maschere immutabili, ma permette di, a seconda del contesto, di far vedere più sfumature, perché i personaggi di un tempo, pensavo per esempio rispetto alle grandi coppie di poliziotti, no? Spesso nei polizieschi c'è la coppia, penso a Starsky e Hutch, quella più famosa degli anni 70, e poi penso alla coppia di offerta da questo film. Sì, ma da Sherlock Holmes, voglio dire, che con Watson fanno la coppia perfetta, no? Appunto, quindi... però sono caratteri, cioè il racconto... Fino a qualche anno fa, diciamo, il racconto, specialmente della lunga serialità, era con personaggi immutabili, con il loro carattere ben definito, spesso in antitesi, no? Sì. Starsky e Hutch hanno due caratteri completamente diversi: uno viene dal basso, uno viene dall'alto, uno è timido, l'altro è sbruffone. La serialità moderna invece permette di andare più in profondità e di, a volte, combinare le carte, e quindi far conoscere di questi personaggi degli aspetti, degli atteggiamenti, dei comportamenti che non ti aspetteresti. Quindi anche renderli più interessanti. Più interessanti, più sfumati, più vicini alle persone vere. Ecco. Francesca, invece una battuta, adesso cambiando un attimo argomento, ma perché tu hai scritto un libro che in qualche modo si associa alla puntata di oggi, un libro sulla punteggiatura che tu hai intitolato Vita di coppia. E perché? No, dunque il no, scusa, il punteggiatura come vita di coppia, ecco, sei identificata in questo modo. Ah, no, ecco, dunque il libro si intitola Questo è il punto, istruzione all'uso della punteggiatura. In realtà all'interno del, siccome cerco di avere un taglio molto narrativo per rendere il più possibile interessante un argomento sulla carta noioso, allora a un certo punto, più che di coppia, parlo dei vari segni interpuntivi come di una famiglia, e con come i rapporti che ci sono e che possono segnare tra le varie frasi, no, all'interno di un periodo, faccio un parallelo con i rapporti che si possono creare con, all'interno delle famiglie, diciamo. Però ecco, il libro più che altro cerca di dare delle indicazioni a chi scrive, che oggi non è solo un addetto ai lavori, un giornalista, uno scrittore, ma data la grande espansione della scrittura a tutti i livelli, grazie ai social network, alla messaggeria istantanea, eccetera, forse la curiosità di sapere come si usa il segno interpuntivo oggi ce la possono avere. E magari riprenderla anche un po' in mano, visto che la punteggiatura ormai molti se la sono scordati, no? Per cui sì, purtroppo appunto ne fanno un uso espressivo molto diverso da quello per cui è pensata. E se posso aggiungere solo un'ultima cosa, sì, l'indicazione che dà il libro per aiutare appunto a capire come questi segni interpuntivi vanno usati è quella di cercare di vincere la vecchia concezione della punteggiatura che viene tramandata nella scuola, cioè che la punteggiatura serva ad indicare nello scritto le pause della respirazione nel parlato. Il libro cerca di spiegare in maniera molto chiara che molti errori interpuntivi li facciamo così, andando a cercare questo respiro, perché invece la punteggiatura è uno strumento sintattico che può cambiare il significato delle frasi se la usiamo male. Sicuramente mi viene in mente quel passaggio del maestro di Vigevano, proprio dedicato alle pause della punteggiatura. Francesca, c'è una sola cosa voglio dire, Stefano. Sì. Posso? Sai che hanno fatto fuori una coppia nella punteggiatura, l'hanno distrutta. Il punto e virgola. Il punto e virgola, immaginavo, non c'è più. Ecco, ci sono direttori di giornali popolari, sì, che vietano ai redattori di usarli perché il pubblico non sa come comportarsi di fronte al punto e virgola. Mi fermo, vado avanti, cosa fa? Torno indietro, non si sa. Ne parleremo. Grazie Francesca Serafini. Ciao, grazie, buona domenica. Ciao. Mai pensato alla punteggiatura come famiglia tu? Come quando no? Scrivi? Sì, sì, sì. Sai qual è la mia preferita? No. I puntini di sospensione. Beh, sono tre. Un ménage à trois. Perché, o da soli o tre, guarda. Ecco, no, poi spieghiamo una cosa, appunto, come quando usi il punto esclamativo da solo, no? Beh, sì. Se proprio vuoi metterlo di più, insomma, sai, quando fai, non quando scrivi un romanzo, ma quando magari scrivi una frase a qualcuno, tre, c'è sempre o uno o tre. Questo vale per tutto, tutti i tipi di punteggiatura. Punto, cioè, mai due punti. Due punti, come diceva Totò a Peppino, ho capito, esageriamo. Quindi mai, o tre o uno, quindi la coppia non c'è mai, curiosamente. Mai. Qua. Almeno per solo nei due punti invece quella, sì, ma è un'altra cosa. Francesca Dragotto, ciao, buona domenica. Buongiorno, buona domenica. Ciao. Allora, vuoi anticiparci un minuto di tempo, poi parli, ma nel senso prima della viabilità, di che cosa parlerai oggi? Perché tu la coppia ti ha subito così fatto, sì, venire in mente un po' di termini che non si sa bene come usare. Beh, istintivamente quando mi hai detto il titolo della puntata di oggi ti ho risposto mi inviti a nozze, questo perché viviamo in un momento in cui a seguito della frammentazione e della diversificazione dei rapporti interpersonali si è venuta a creare un'interessante questione terminologica riferita a chi vive lo status di marito e moglie pur senza esserlo, per cui parleremo di questa frammentazione, insomma dal compagno all'uscente. All'uscente la persona che divorzia, cioè che non è più con te, no, no, sarà quello, giusto? È vero? No, andiamo a scoprire che cos'è tra pochissimo. Il numero per giocare alle 11.30, 800 24 0024. Il riposo del guerriero. Prima di farci spiegare da Francesca Dragotto, la nostra glottologa, il significato di uscente, volevo chiedere a Tommaso Labranca, secondo lui, che cos'è l'uscente? Cioè, la compagna si capisce, ma l'uscente? L'uscente sarà quello che usce. Tu non sai cosa vuol dire uscire in italiano. Quindi, non so, chiediamo uscire, avevo in mente, no, venire fuori? No, è un verbo che ho inventato io. L'uscente è colui che usce. Adesso poi, siccome abbiamo la glottologa, ce lo spiega lei. Cioè, non posso dirti sempre tutto. Secondo me è la persona con la quale esci. Cioè tu hai un uscente? Ah. Cioè hai una persona con la quale esci? Oppure sei un uscente? Non lo so, come si usa? Francesca? Hai ragione, hai perfettamente colto il significato di questa creazione neologica che serve a sopperire la necessità di nuove etichette che servono appunto ad identificare nuove forme di rapporto. Di rapporti. Se infatti non c'è dubbio sullo status di rapporti significati da coppie terminologiche ormai consolidate, moglie, marito, fidanzato, fidanzata, ragazzo, ragazza e così via, quando ci si discosti dal canone, il terreno inizia a traballare. Quindi il problema diventa come chiamare colui o colei con il quale o con la quale si intrattengono rapporti assimilabili a quelli che ho citato, quindi rapporti da moglie, marito, fidanzato, fidanzata, senza però necessariamente ricorrere ad un'etichetta che o non si condivide o non corrisponde allo status giuridico, oppure non corrisponde semplicemente al sentire che normalmente attribuiamo a una delle coppie delle opposizioni che ho citato. Quindi il lui o la lei del momento, o non necessariamente del momento, perché magari ci si vive more uxorio, come possono essere definiti? Amico, amica, compagno e compagna? Questa coppia ha dalla sua la bellezza dell'etimologia, perché letteralmente compagno è colui che mangia lo stesso pane, però onestamente sembra riduttivo, oltre che un po' inficiato dal riferimento ideologico di matrice politica, che però è chiaramente più recente rispetto alla storia del termine stesso. Ricorriamo a partner, che ha dalla sua il vantaggio di essere ambigenere, ma che però ha lo svantaggio di potersi riferire a qualsiasi stato di coppia. A metà dell'Ottocento trovavamo partner già impiegato in italiano per indicare chi ballava insieme, chi recitava nella stessa pièce teatrale, per cui si tratta di un qualcosa che non necessariamente implica l'impegno sentimentale. Fidanzato e fidanzata, dopo essere caduti in disuso, essere stati sentiti come obsoleti, sono tornati un po' alla moda, dapprima in sé perché utilizzati in senso ironico, e poi invece rinnovellati nel loro significato. Oppure frequentante, il nuovo frequentante nasce dal mi frequento con appunto, però l'uso di frequentante in senso assoluto per indicare la persona con cui si esce, questo è il mio frequentante o un frequentante, a uno che è abituato a fare esami fa venire in mente la domanda: quanti appuntamenti si possono saltare per essere comunque ritenuti dei frequentanti, così come l'università, quante lezioni si possono saltare per dare l'esame da frequentante. Eppure si tratta di usi ampiamente consolidati soprattutto tra i giovani e tra i giovanissimi. Citavo il caso limite di uscente, limite perché si sta affermando questa neosemia con un significato che è opposto a quello del suo etimo, visto che ha a che fare con uscire, visto che uscente come aggettivo è utilizzato in italiano per indicare letteralmente ciò che sta per finire, quindi sì, riferimento ad esempio a un mandato, alla fine di un mandato. E proprio per far capire, per far toccare con mano a chi non l'ha mai sentito che si tratta di un termine ampiamente utilizzato in una certa fascia della popolazione, sono andata in giro per la rete, oltre che in giro tra le persone anche in spiaggia, a domandare: ma voi come vi riferite a chi si trova in questa condizione, non potendo utilizzare in senso stretto i termini che avete a disposizione? Mi sono sentita dare tantissime risposte, una molto interessante l'ho trovata in un gruppo di discussione e ve la leggo anche se in sintesi. Una ragazza domanda: volevo chiedervi, io sto uscendo con un ragazzo e ci ricordiamo sempre reciprocamente che noi non siamo insieme, però io non so come comportarmi, dovrei essere gelosa, dovremmo già chiamarci amore, ci dobbiamo già tenere per mano, dovremmo fumare la stessa sigaretta? Sì, baci e piccolissime coccole già ci sono state, però mi sembra che da come ci comportiamo siamo già insieme, ma insomma siamo fidanzati o uscenti? E quindi il bisogno di questa persona di confrontarsi con le altre persone del gruppo per avere un riscontro di tipo terminologico ci fa capire che qui non si tratta di questioni di forma e tantomeno di forma linguistica, ma di questioni di sostanza. Eh sì, anche perché il problema lì, da quello che vedo, alla fine è la non volontà di prendersi un impegno, no? Allora alla fine vedi una persona che frequenti, con la quale stai anche bene, però non vuoi pigliarti l'impegno di sentirti fidanzato. Ecco, e allora devi trovare una terminologia diversa. Io ne avrei anche però una proposta, tipo, annusanti. Annusanti perché come si annusano, i cani che si guardano, si annusano. Poi soprattutto lei anche la fa annusare, e quindi capisci, sono ancora in questa fase di annusamento tra loro, più che uscenti annusanti. Per me sono già un passo oltre, sai, quello l'annusante che dici è un tu. Passo sì, oltre. Sì, sì, sì. No, l'annusante è un passo indietro, l'uscente è già un passo oltre, l'annusante è già arrivato da mo'. Comunque l'importante da quello che intuisco l'importante io, è che questi uscenti non si chiamino amo. Amo. Amo. Condivido, Ma anche uscente devo dire che è brutto. Io ho sperimentato per la prima volta il significato di uscente con una pessima battuta, perché dopo essermi sentita dire dalla lei che aveva un uscente, pensando che lui sapesse, lui di turno, sapesse di essere un uscente, nel momento in cui l'ho conosciuto gli ho detto: ah, tu sei l'uscente di... E devo dire che lui non l'ha presa molto bene. E questo a testimoniare il fatto che si tratta di una zona grigia in cui ciascuno ritaglia la porzione di significato da legare alle nuove forme in maniera anche abbastanza soggettiva. Recentemente ci sono stati diversi approfondimenti anche da parte di quotidiani, penso uno tra tutti il Corriere della Sera, che ha dedicato un approfondimento al trombamico, parola sicuramente meno radiofonica, ma che... Montanelli si sta rivoltando nella tomba. Io ogni volta che leggo questi articoli sul Corriere sento il rombo. Biagi, Montanelli fanno... Brrr. Prego, vai avanti. Però è un dato di fatto. Sì, no, per carità. Poi dal punto di vista linguistico si tratta di tutta una serie di coniazioni di grandissimo interesse, ma che più che per la forma sono interessanti per il modo in cui chi le crea ritaglia la realtà. Penso a Aminzato, che è l'amico ma anche il fidanzato, quindi c'è un discrimen che molto spesso è segnato o dal sesso, dal fatto di intrattenere anche rapporti di natura sessuale con la persona che si frequenta, o dal grado di coinvolgimento anche emotivo, non ancora magari sentimentale, ma anche emotivo, o da entrambe le cose. Quindi l'insieme di questi fattori spinge i soggetti interessati a ritagliare la realtà dei loro rapporti, dei loro rapporti interpersonali, assegnando a questa zona che viene via via ritagliata un'etichetta che deve corrispondere al proprio sentire. Quindi la grande creazione neologica, potremmo andare avanti soprattutto guardando ai significati che le persone attribuiscono ai diversi termini, ci fa capire come l'italiano, così come tutte quante le lingue che sono espressione di culture in cui i rapporti si stanno modificando, stanno subendo gli effetti di questa creazione o di questa riscrittura di parole che magari sono secolari. Quindi il mio invito, se posso, è di segnalare attraverso gli sms o attraverso la pagina Facebook del Guerriero o attraverso Tuttopoli, come preferite, tuttopoli.com, le parole che voi utilizzate, che tutti coloro che ci stanno sentendo utilizzano, per riferirsi a delle situazioni che non siano la vera coppia è standard, esatto, certo. Grazie Francesca, ti devo salutare, un abbraccio, ci sentiamo la settimana prossima, buona domenica. Ciao. Volevo usare questo minuto con te, sì, Tommaso, per chiederti: ma perché c'è bisogno di identificare l'altra persona in qualcosa per forza? Non si può tacere e basta. Tu sai cos'è per te e basta. Ma appunto, ecco. No, perché devono sempre specificarlo. Ma non è tanto importante il termine che tu metti, che tu usi, quanto l'aggettivo possessivo, mio e mia. È lì la chiave di tutto. Sì, la mia ragazza, il mio ragazzo, la mia fidanzata. Ma l'hai comprata? No. È una mia amica, è un mio amico. No, l'ho incontrato prima. Cioè, sempre essere vaghi, bisogna sempre essere vaghi. Cioè, l'esigenza di sentirsi appartenere a qualcuno o che questo qualcuno appartenga a esatto, te. Esatto, l'esigenza di dire: guardate, non sono sfigato. Tu hai presente i concerti. Sei stato ai concerti, no? Qualunque tipo di concerto tu vai, c'è sempre quello sfigatissimo, con gli occhiali spessi, la nana orrenda, così, che si sono incontrati all'oratorio e si abbracciano e si baciano e si fanno delle cose orrende. Per dire: noi siamo anche insieme. Noi lo facciamo. Siamo uscenti, esatto. Ecco, esistiamo. Va bene, c'è il GR e poi torniamo a parlare con la nostra dottoressa Sara Viora, una psicologa, per capire le forze e le debolezze della coppia e della solitudine. Tra pochissimo nel riposo del guerriero. Il riposo del guerriero. Le 11:06, ancora buona domenica da Stefano Gallarini, il riposo del guerriero che oggi si occupa di coppie, di vita a due, diciamo così, coppie di tutti i generi, oppure di vita solitaria o isolazionista, come Tommaso Labranca, che è mio ospite oggi, così ha voluto sottolineare, ecco, sì, identificare. Perché io sono isolazionista, sì. Quindi godo dell'isolazionismo. E sai che c'è una cosa bella: quando incontro un'altra persona isolazionista, sì, ci ignoriamo completamente. Ma vi riconoscete? Assolutamente, sì. C'è proprio un segnale, non si può spiegare cos'è una cosa che si percepisce, immagino, no? Diciamo pure che ci sputiamo in faccia a vicenda, allora capisci che siamo due isolazionisti. Allora, prima della dottoressa Sara Viola, alla quale chiedo di presentare ancora un attimo, e devi rispondere a un messaggio, nel senso che prima tu hai detto due ragazzi sono incontrati all'oratorio. Sì, ecco, sì. Però hai detto così, perché il messaggio dice evidentemente il suo ospite non è mai andato all'oratorio, altrimenti avrebbe conosciuto belle ragazze diversamente dalla sua. Allora, ecco, uno, caro ascoltatore, a imparare ad aprire gli orecchi ad ascoltare quando uno parla. Vabbè, senso dell'umorismo meno 10. Allora, stiamo dicendo dall'inizio che io sono single, isolazionista, eccetera. Vabbè. Quindi uno. Due, è vero, non sono mai andato all'oratorio, l'ho stampato anche sui biglietti da visita, cioè Tommaso Labranca non è mai andato all'oratorio, cioè, è l'anti-oratorio Pride, capisci? Ecco, io ne godo di questo. Però cosa. Insomma, se l'ho detto così, ma per dire era un ironico, luogo di incontro, era ironico. Ma perché è un luogo di incontro, sì, semplicemente. Sì, poi è il luogo di incontro più innocente, esatto, e allora poi si sfogano invece al concerto, che è quello invece dove c'è il diavolo, la musica rock e la musica del diavolo. Era la dicotomia che funzionava, esatto. Insomma, però non è stata colta, fa niente. Margherita, però speriamo... Sante Porcos. Dottoressa Sara Viola, buona domenica. Buona domenica a tutti, in coppia o singoli che siano. Certo, psicoterapeuta, per capire, dottoressa, quali sono le forze dell'isolazionista, come il nostro Tommaso Labranca, e le forze invece della coppia, ma al di là della coppia sentimentale, abbiamo sentito anche Grom prima, per capire la coppia anche che lavora insieme, le persone che preferiscono appunto associarsi a qualcuno per proseguire, e i punti di debolezza invece di entrambi. Direi che mai come oggi questa domanda è pertinente, come si direbbe in un'aula di giustizia, nel senso che la paura, il panico da altro, cioè l'altro da me, l'altra persona, ha raggiunto livelli parossistici. Pensiamo che a Milano il 40% delle case sono case per persone sole, e che anche, diciamo, sui posti di lavoro, nelle imprese, impera l'individualismo, l'individualità o il vivere una dimensione solitaria. Direi che questo non avrebbe nulla di preoccupante se non fosse legato a una sorta di perdita di senso dell'altro, o ancora peggio, di fobia dell'altro, per cui l'altro viene vissuto costantemente come una minaccia, come qualcuno o qualcosa che comunque ti espropria, ti può estorcere, ti può soprattutto determinare, ti può condizionare, quindi togliere personalità e senso di te. Questo secondo me, dal punto di vista psicoterapico, siccome noi sappiamo che uno degli elementi di funzionamento psichico è la capacità di stare con gli altri, indica una sofferenza nell'essere umano. L'essere umano è un po' più spaventato di prima, è un po' meno aperto, meno disponibile, diciamo anche meno fiducioso. Credo che in questo si ascriva anche la crisi della religione come senso di affidamento all'altro, a qualcosa che non sia tu. Il vantaggio qual è? Il vantaggio è che sicuramente abbiamo meno paura di stare da soli, meno paura della nostra compagnia, la compagnia di noi stessi, e questo dal punto di vista psicologico sicuramente invece è un elemento di crescita, perché noi sappiamo per esempio che nel bambino una delle tappe fondamentali è l'autonomia, quindi la capacità di cavarsela da solo e di starsene per i fatti suoi. Io da inguaribile romantica sono un po' dispiaciuta per una questione, che mi sembra che a questa crisi dello stare insieme si associ anche una paura della parola amore, quindi della espressione magica, per chi è un po' anzianotto come me, di io ti amo. Quando io chiedo in terapia a qualcuno che sta in coppia, so che ha un partner, come dicevate voi prima, o qualcuno con cui esce, e chiedo ma tu sei innamorato o sei innamorata? Mi sento dire delle cose tipo sto bene con lui o con lei mi capisce, ma quasi c'è la sensazione di non voler utilizzare questo termine, perché fa un po' paura, c'è una sindrome nuova che è il panico da chi. Ecco, però non è soltanto l'amore, abbiamo sentito prima con Francesca Dragotto che sono tutte le parole a spaventare in realtà, quindi tant'è vero che si cercano dei neologismi. Per identificare comunque, cioè, appunto si parlava dell'uscente, per dire che esco con quella persona però senza che si sia ancora una coppia, si ha proprio un esatto. Po' paura, ma la paura non può essere anche il fatto di dover rendere conto a qualcun altro, e quindi questo spaventa, perché non è solo prendere cura dell'altra persona ma anche rendere conto di quello che si fa, perché bisogna avere considerazione dell'altro, no? Sicuramente, e secondo me questo aspetto è legato al cambiamento delle attese che ciascuno di noi ha quando si mette in coppia con qualcuno. Una volta nessuno si aspettava di essere felice nel rapporto di coppia, ci si metteva in coppia per ragioni molto diverse, per ragioni di convenienza, per ragioni, le donne si mettevano con qualcuno, diciamolo apertamente, perché per provvedere a se stesse serviva che qualcuno andasse a lavorare, loro dipendevano completamente da questo qualcuno, per cui la domanda sono felice, sarò felice con lui o con lei era veramente inopportuna. Oggi l'aspettativa nello stare insieme è proprio quella di essere felice, o se parliamo di lavoro, di avere un grande successo. Quindi è cambiato il nostro atteggiamento verso le imprese a più d'uno, e la frustrazione quindi è quasi garantita, perché se io mi metto con un'altra persona e mi aspetto di essere felice, ho fallito in partenza. E ascoltandovi prima mi veniva in mente una coppia di ragazzini che sto seguendo in questo momento, ai quali ho chiesto: ma voi che cosa siete, cosa vi definite? Ecco. E mi è stato risposto: noi siamo scialli andalusi, naturalmente l'aggiungiamo tra le parole che Francesca stava cercando oggi, ecco. Ecco, sicuramente il passo a due è molto più difficile del io ballo da sola. Ballare in due significa veramente stare attenti in tutti i sensi a non pestarsi i piedi, e quindi bisogna avere un'armonia e una comunanza di intenti veramente veramente complicata. Però penso anche, mi sento di spezzare una lancia per il passo a due, il senso di appartenenza in fondo fa stare bene, l'appartenenza sia alle nostre origini che a qualcuno al quale ci sentiamo particolarmente affini e vicini, tutto sommato credo ci aiuti un po' ad avere energie quando le energie nostre sono un po' in riserva. Dottoressa Viola, volevo fare una domanda io, siccome io qui sono qua a fare la parte dell'isolazionista, ma perché io sono legato a un mondo antico, io vorrei vivere come in un romanzo di Jane Austen, capisci? Cioè, queste signore che signorine si sposavano perché dovevano farlo, non perché c'erano altri motivi. Però oggi la domanda che io sento in giro non è tra due che si sono conosciuti, non è ma tu mi ami, è dove mi porti in vacanza, dove andiamo nel weekend. C'era una pubblicità di automobili, che sono le peggiori, qualche tempo fa, in cui c'erano due pretendenti di questa damina, e lui diceva praticamente: se ti metterai con me ogni weekend un viaggio, ma io ti prendo schiaffi, ma no, dobbiamo stare insieme anche a Gratosoglio, qui in periferia, dove vuoi. Cioè manca quindi la voglia di stare insieme, piuttosto bisogna fare delle cose insieme. Non esatto, siamo molto lontani dai due cuori e la famosa capanna, ma perché la coppia si è spostata dal sentire al fare, e secondo me si è spostata dal sentire al fare per la paura del sentire. Sentire un'emozione, accettarla, un'emozione positiva o negativa, la rabbia o la passione, vuol dire essere persone forti, vuol dire non averne paura. Se tu sei sempre in giro, se vai in montagna, al mare, via, non senti. E l'uomo di oggi è pochissimo uomo psicologico, purtroppo, questo lo dico con un senso di grande fallimento per chi fa la mia professione. Noi cerchiamo disperatamente di azzerare, mettere a tacere tutto ciò che non è concreto, e la psiche è qualcosa di assolutamente non concreto, e i suoi prodotti, cioè le emozioni, sono totalmente ingestibili sul piano del fare. Allora la coppia si mette in movimento e così nel fare non sente. Il problema qual è? È che quando questi due elementi, il fare e il sentire, si devono ricongiungere, cioè nella sessualità, perché la sessualità è un fare e sentire insieme, lì la coppia mostra la sua fatica, e infatti le consultazioni di natura sessuologica oggi, anche per coppie sposate che stanno insieme eccetera, sono numerosissime, perché quando devi sentire l'altro mentre fai l'amore con lui, la tua difficoltà ti dimostra quanto sei lontano dalle dimensioni emotive che dovresti invece sperimentare. Grazie dottoressa Sara Viola, grazie davvero, buona domenica. Grazie, aggiornamenti sul traffico, e poi c'è una coppia molto conosciuta che ci racconterà insomma come funziona, e insomma chiederai anche a loro, Tommaso, immagino, se hanno mai litigato. Più o meno. Il riposo del guerriero. Franz, ma non ti fa mai arrabbiare il fatto di essere secondo? Perché è sempre Ale e Franz, hai capito? No, dai, no, non mi sono mai posto questo problema, anche perché io di cognome faccio Villa, quindi nell'alfabeto a scuola ho fatto una vita ad essere ultimo praticamente. Che poi ti andava anche bene, non ti interrogavano mai, no? Dipende, sai, gli estremi sono quelli che talvolta beccano. Comunque volevo dirvi che io sono via a fare un weekend con la mia fidanzata, adesso la lascio, perché ho capito. Perché? No, è già tanto... Adesso che ho saputo che è tutta sta roba del portami via il weekend, allora adesso... adesso vado di là, mi arrabbio. È già bello che tu abbia detto la tua fidanzata, perché abbiamo capito che ormai si chiamano le uscenti, hai capito? Cioè, sono... No, in realtà sto scherzando, io sono in tournée con Ale, però mi è piaciuta molto la riflessione che è stata fatta prima sul fare e sul sentire, ed è stata una bellissima riflessione, quindi faccio i complimenti alla dottoressa che l'ha fatta. Senti Franz, la vita di coppia dal punto di vista dello spettacolo e quindi anche del lavoro in qualche modo, che cosa comporta, se vuoi fare un parallelismo, con la vita di coppia invece reale? Ma no, guarda, cioè reale nel senso d'amore, ecco, per capirci. Hanno molte cose in comune, perché comunque... anche se non può non sembrare, però c'è una convivenza molto forte, perché ovviamente quando dividi il lavoro con un'altra persona, un lavoro così intenso come il nostro, che comporta molto spesso non solo le due ore di spettacolo, ma tutto quello che ci sta intorno, quindi l'arrivarci, il permanerci, il dopo, il prima, quindi nell'arco di un anno, se fai 200 spettacoli vuol dire che passi probabilmente, sfiori 300 giorni insieme probabilmente, quindi... sotto questo aspetto c'è questa convivenza che è molto forte. Le dinamiche molto spesso sono quelle proprie di una coppia, ovviamente sono un po' diverse le finalità, perché sì, le finalità lavorative ovviamente sono diverse rispetto a delle finalità legate proprio alla vita e allo star bene nella vita. Molto spesso al lavoro ti concedi magari delle tensioni diverse che non concederesti al tuo partner o alla persona che ti sta di fianco, perché io dico, quando stai a casa vuoi stare bene al 100%, magari al lavoro c'è qualcosina che non ti va bene, ma la mandi giù perché comunque è lavoro e sai che c'è anche altro nella vita. Quali possono essere le difficoltà che si incontrano con una coppia così solida come la vostra? Ma io penso che le difficoltà, che poi in realtà non è una difficoltà, però la cosa su cui ci si confronta sono le linee decisionali e le strade da prendere. Spesso per una cosa che si fa se ne rifiutano altre, e poi decidere all'interno che linea prendere, decidere che percorsi fare, questa è la cosa più importante sulla quale ci vuole unione, se no ovviamente molte coppie si sciolgono perché desiderano, i componenti desiderano fare cose diverse, quindi desiderano andare in strade diverse, quindi se non si è uniti non si può percorrere una strada insieme. Ecco, senti, una cosa volevo chiederti anche, che cosa ti ha aiutato, cioè c'è qualcosa che è cambiato nel tuo carattere, nella tua personalità? Prima, appunto, quando abbiamo parlato con Martinetti, che insieme a Grom ha fondato la gelateria, lui diceva: io avevo delle gambe non erano per niente solide, e invece l'avvicinamento a Federico mi ha aiutato proprio a essere più sicuro di me. A te cos'è successo, insomma, che meccanismo è scattato, se ne è scattato uno, oppure ad Alessandro, ecco, per capire se la coppia vi è servita anche da un punto di vista umano, ecco, di vita, di crescita? Beh, io devo dire che io e Alex, sebbene abbiamo tante cose in comune, siamo profondamente diversi in tante cose. Io sono cresciuto molto nelle regole, cercando di strutturare sia le mie scelte che il mio lavoro, cosa molto differente da Ale, quindi Ale sicuramente ha una mente meno strutturata della mia, nel senso che ha meno vincoli, e all'inizio questo un po' me scombussolava, perché insomma dei due sono io quello che ha il computer, quello che mette via le cose, quello che archivia le cose, Ale non lo farebbe mai, quindi questo contrasto tra una sua mente che è molto più libera anche di pensare a 360 gradi rispetto alla mia, che è un po' più inquadrata, direi che sicuramente mi ha insegnato a vedere che ci sono persone molto diverse da me, cosa che non pensavo, così tante diverse, se devo essere onesto. E poi mi è servito molto, ho imparato molto spesso a mettere in dubbio le proprie decisioni rispetto a chi la vede in modo molto diverso da te, e questo è una bella esperienza di vita, perché ti fa capire che spesso l'affidarsi, se hai veramente fiducia a chi hai di fianco, ti può portare a scoprire delle strade migliori. Ecco, questa è una cosa molto bella che hai detto, perché è vero, bisogna imparare proprio ad affidarsi all'altra persona, no? Ed non è per niente facile, però una volta che ci si è riusciti davvero si conquista molto. Grazie Franz, ti lascio ridormire, se hai rialetto, lo so, quindi se vuoi ancora riposarti. No, ma sono qua, no? Che barcamino, noi siamo in tournée, oggi siamo vicini a Pisa, ah, okay. Come sai, non sono degli orari sempre molto... si viaggia di nuovo. Per quello lo dico. Grazie ancora e complimenti, grazie davvero, voi, ma questo lo sapete. Ciao. Grazie, buona domenica. Senti Tommaso, sì, velocemente, tu se dovessi scegliere una persona vicina, che caratteristiche dovrebbe avere? Al di là, non parlo d'amore, ma può essere anche il lavoro. Cosa deve avere? Muta. Totalmente incapace. Esiste di il servo parlare. Muto, esiste, gli appoggi sui vestiti. E esatto, lì, no? Ecco, basta. No, vabbè, no, scherzo, non è muto. Deve essere una persona che, come diceva appunto Franz, deve affidarsi a me come io mi affido a questa persona. Io ho provato a lavorare coppia, sì, ho provato e ho sempre trovato persone che pensavano io fossi il segretario. Eh no. C'è qualcosa che non funziona. Se lavoriamo insieme siamo sullo stesso piano, altrimenti no. Questo mi è capitato più che altro molti anni fa, ma anche prima di cominciare a lavorare seriamente, da ragazzi, ecco, c'era quello lì, l'amico preferito con cui pensavi di fare chissà che cosa nella vita, e oggi ogni tanto vado a spiare sui social network che fine hanno fatto. E io non è che abbia fatto granché nella vita alla fine, però loro hanno fatto qualcosa meno di me. Ecco, perlomeno io sono qui con te in questo momento. Loro in questo momento saranno con la fidanzata che si sarà ingrassata mostruosamente in qualche luogo a fare un weekend costretti. Enrico Groppali, buona domenica. Buona domenica a te, come stai? Bene Enrico, grazie. Allora, senti, le coppie che hanno avuto grande successo sugli schermi, nella letteratura, da dove partiamo Enrico? Ma possiamo partire addirittura dalla perversione, perché ne abbiamo avuto anche addirittura la coppia omosessuale formata da Verlaine e da Rimbaud a un certo punto, che ha segnato un'epoca nella storia della poesia. Ma abbiamo anche, per esempio, tra le coppie del Novecento, quando il segno cinematografico si afferma con la massima incidenza, abbiamo avuto le coppie proprio degli innamorati del secolo, abbiamo avuto, non so, Barton e Elizabeth Taylor, per esempio, che hanno riempito le cronache, non solo le cronache mondane, della loro affascinante perversione, continuando a sposarsi, risposarsi, lasciarsi e riconquistarsi anche al di là dei due matrimoni che hanno celebrato. Ma abbiamo avuto anche, per esempio, la coppia formata da Alice Toklas e dalla sua amica Gertrude Stein, le quali in piena guerra hanno rinunciato alla scrittura e alla frequentazione di personaggi famosi come Picasso, eccetera, eccetera, andando in giro per Parigi su una ambulanza truccata da carro funebre, soccorrendo e nascondendo gli ebrei. E non so, le coppie praticamente attraversano il Novecento e attraversano il nostro secolo con un'ingerenza, una capacità di trionfare delle avversità e di manifestarsi senza pudori o nell'empito più selvaggio e più irrefrenabile della passione, oppure in quello anche, diciamo, più casto e riservato della frequentazione, con una forza e un coraggio memorabile. Per esempio nella letteratura abbiamo anche la coppia formata da Marguerite Duras e da Mitterrand, che quando nel dopoguerra uno diventa Presidente della Repubblica e l'altra la grande scrittrice, che grazie all'amante ha un successo mondiale, e si vede rifiutata dal suo ex amante, che le aveva promesso un posto di responsabilità in una catena radio-televisiva che interessava tutta la Francia, per vendicarsi mette in scena una commedia intitolata Marguerite le Président, Marguerite il Presidente, con le lettere che lei gli scambiava da un réseau della Resistenza all'altra, ricattandolo e dicendogli che la commedia girerà per tutta l'Europa se lui non la reinserirà in quella catena che le aveva promesso. Cosa che puntualmente accade, e laureando praticamente Marguerite alle soglie ormai del 2000 come una delle massime glorie della comunicazione. Quindi le coppie hanno fatto proprio la storia della nostra Europa o della nostra America. Pensiamo anche alla coppia formata da Francis Scott Fitzgerald e la sua moglie Zelda, finita tragicamente con lei ospite di una casa di cura per malattie mentali, che muore inavvertitamente dopo che un'altra ospite della stessa istituzione ha attaccato involontariamente, ha messo a fuoco l'istituto che le ospitava entrambe, e con Fitzgerald che cerca invano di scrivere sceneggiature a Hollywood per il cinema e che cade vittima di un'altra donna, meno perversa della prima ma forse più temibile, come la giornalista Sheila Graham, che dalla loro storia trae un brutto romanzo, però che ha un grande successo di pubblico, che si intitola Adorabile Infedele, che a sua volta dà origine a un film con Gregory Peck e Deborah Kerr. Quindi l'universo delle coppie è illimitato. Ecco, senti Enrico, oggi invece secondo te vincono i solitari o vincono ancora le coppie? Ma bella domanda questa. In un certo senso vincono i solitari, perché anche le coppie del cinema di oggi, per esempio, non solo si dividono, si riprendono, beh, in uno scambio incessante che ha sempre laureato, diciamo così, i movimenti altalenanti di una coppia amorosa, ma ognuno fa storia a sé. Penelope Cruz, per esempio, fa storia a sé indipendentemente dal marito, e i divi hollywoodiani, anche se si sposano e fanno figli e ne adottano un'infinità, a un certo punto è su uno di loro in separata sede che la pubblicità preme, che la pubblicità si dilata in modo gigantesco. E poi a un certo punto questa dilatazione del privato che diventa pubblico finisce per inghiottirle, per snaturarle. Pensiamo al caso di tutti i figli di Angelina Jolie e cose di questo genere. Certo, una delle coppie della quale poi si è discusso proprio recentemente. Enrico, ti devo salutare, ma ti ringrazio come sempre molto. Buona domenica. Ringrazio voi, buona domenica e a presto. Grazie, grazie. Siamo in ritardo, ma andiamo avanti perché abbiamo ancora due ospiti che dobbiamo assolutamente così sentire. Il primo è Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra, buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno da Roma. Radio 24, sapete che è media partner del premio Strega, c'è stata la premiazione con gli ascoltatori che hanno potuto assistere per la prima volta a una premiazione così importante, e parliamo del libro che ha vinto perché ha proprio a che fare con la puntata di oggi. Ha a che fare con la puntata di oggi per due ragioni. Innanzitutto perché è un dittico, quindi c'è una prima parte che era uscita nel 2010 e si chiamava Persecuzione, sottotitolo Il fuoco amico dei ricordi, e questo che invece è stato premiato con lo Strega, che si intitola Inseparabili, stesso sottotitolo. In realtà l'autore Piperno aveva scritto prima Inseparabili e poi Persecuzione, però ha deciso di pubblicarli al contrario. Insomma, questo è un vezzo da scrittore. Una bella decisione, poi gli ha portato anche la vittoria del premio. Decisione anche perché appunto Inseparabili ha vinto il premio Strega 2012. Ma poi la cosa più importante, diciamo, più che ci azzecca, diciamo così, in questa puntata è che Inseparabili, il fuoco amico dei ricordi pubblicato da Mondadori, gira intorno alla storia di due fratelli, Filippo e Samuel, che da piccoli si amano visceralmente, sono quasi una cosa sola. Poi da grandi iniziano ad avere un senso di concorrenza, perché Filippo prima è l'uomo di successo, sia sul lavoro, sentimentalmente, con le donne, eccetera, eccetera. Samuel è quello un po' più sfigatino da tutti i punti di vista, anche sentimentali e sessuali. A un certo punto i piani si ribaltano, perché Samuel vince con un cortometraggio, un cartone animato, un premio al Festival di Cannes, e Filippo inizia ad avere problemi sul lavoro e nella sua vita sentimentale. Quindi questo scambio di piani, dall'alto al basso, dal basso all'alto, fa nascere un senso anche di invidia fra due fratelli. E mai come in questo libro, diciamo, si segue la storia di due fratelli che prima sono stati, come dicevamo, uniti veramente tantissimo, poi succede un qualcosa che però non vi diciamo, sennò vi togliamo il gusto della sorpresa nella lettura del libro, che finisce per dividere questi fratelli e farli entrare in concorrenza. E non raccontiamo ovviamente come finirà, leggiamolo e basta. Grazie Alessandra Tedesco, buona domenica. Buona domenica ciao, a tutti. Ciao. Grazie. Hai capito quindi, Tommaso, da isolazionista potresti trasformarti domani in, non lo so, gruppista, ecco, addirittura. Cioè, addirittura. No, gruppista è troppo, anche perché poi, sai, cioè, Piperno, Alessandro Piperno, che scrive di due fratelli, sì. In realtà lui è cultore, studioso, del più grande scrittore isolazionista di tutti i tempi, che è Marcel Proust. Proust scrive di questo grande affresco di relazioni nella ricerca, però lui era essenzialmente un isolazionista, ecco, per cui magari anche Piperno forse è come lui, cioè è anche lui un isolazionista, per questo non ci si incontra mai, non, gli isolazionisti proprio si repellono, non ci si incontra, non ci si piace. Ti piace questo? No. Ma perché a volte sai che non. No, perché in generale a noi non piacciono le persone che ci assomigliano, no? Le persone, cioè, quando abbiamo una cosa, una caratteristica che non ci piace di noi, quando vediamo quella caratteristica sugli altri, quell'altri non ci piacciono, perché rivediamo quella cosa. Questo è vero, infatti, tutte le coppie di cui abbiamo parlato oggi, le coppie comiche con Ale Franz, le coppie del cinema, hanno sempre caratteri opposti, altrimenti molto non potrebbero diverse, produrre niente. Funziona. Come diceva William Blake, soltanto le opposizioni. danno poi il via al progresso, il frutto. Ti ho portato anche le citazioni corte. Vedi che bravo che sei, ma già lo sapevo. C'è il nostro gastronauta. Il gastronauta. Ciao Davide Polini, abbiamo pochissimi minuti. Ciao, per parlare, ci sono delle cose inseparabili quando si parla di enogastronomia? Ma il vino è inseparabile, perché non è che se lo aggiungi con l'acqua ottieni dei risultati pessimi. No, non voglio neanche sentirne parlare. Guarda. Il vino è difficile, perché ci sono dei tentativi, ma sono tentativi molto mal riusciti, insomma, quindi credo che il vino possa essere uno di questi. Il resto è quasi sempre compatibile, perché è difficile trovare un cibo che non sia compatibile. Se si pensa ai salumi, pensa a quanti vanno bene con la frutta: il prosciutto col melone, il salame con i fichi, il culatello ancora con i fichi. Quindi è difficile trovare. La carne può andare bene con tutto, col pomodoro e con altro, la pasta pure. È difficilissimo trovare un cibo, diciamo un ingrediente che possa vivere. Certo, può vivere da solo, perché il prosciutto si può mangiare da solo, il salame si può mangiare da solo, la carne si può mangiare da sola, però poi sono anche compatibili, nel senso che si possono sposare benissimo con altro. Anche perché poi la riuscita della cosa è proprio mettere insieme le pietanze giuste, insomma i sapori, esatto, giusti. L'arte è quella di mescolare e ottenere un risultato che sia gradevole. In fondo questa è l'arte del cuoco, cioè il cuoco dovrebbe proprio riuscire a fare questo, mettere assieme, diciamo, ingredienti vari, sapori, profumi diversi e ottenere un risultato finale importante. E quindi è l'arte dello scindere e dell'accoppiare. Anche il vino, ho detto prima che da solo non si può mescolare, però l'accoppiamento del vino è fondamentale, perché devi assolutamente azzeccare degli accoppiamenti che siano giusti, che siano compatibili, che non diano fuori un sapore stridente in bocca. Ecco, senti, invece per parlare di ristoranti, gli posti dove si va a degustare, quindi, sono più forti secondo te quelli dove ci sono le coppie che lavorano, marito e moglie, oppure due amici che hanno aperto insieme un posto, oppure dove c'è lo chef singolo che niente ha a che fare da un punto di vista di coppia con il proprietario o la proprietaria del ristorante? Ma devo dire che la nostra tradizione italiana è del ristorante di famiglia. E quindi, se vogliamo vedere, diciamo, la linea italiana è questa, non è la linea francese della distinzione tra chef, sous chef, cuoco, maître e via di seguito. In Italia diciamo che ci sono risultati straordinari di aziende familiari. Il problema molto grosso è quando magari passa una generazione e c'è il problema che non c'è più la famiglia completa, e lì nascono molti dolori. Ma questo è un problema italico che abbiamo anche nelle aziende. La trasformazione delle aziende familiari, del famoso capitalismo familiare, è importante ed è in Italia uno dei punti deboli. E così pure la ristorazione, quando manca magari in cucina, quindi qualcuno di famiglia non è più in cucina o viceversa, lì comincia a zoppicare. Quando invece si mantiene il nucleo familiare, e allora lì è molto molto importante. E devo dire che forse i migliori ristoranti italiani degli ultimi anni quasi tutti sono stati a conduzione familiare. Ora stanno emergendo la conduzione singola, quindi dello chef o del patron, ma fino a qualche anno fa eravamo veramente una generazione di ristorazione di famiglia. Grazie Davide Paolini, ci sentiamo domenica prossima, buona domenica. Ciao, ciao, grazie. Siamo un po' in ritardo con il gioco, le previsioni del tempo, il numero per giocare 800 24 00 24. Un mistero in 24 minuti. Per voi fino a 1000 euro da spendere in libri digitali o cartacei, ammesso che riusciate a risolvere il mistero in 24 minuti. La soluzione può essere una delle notizie della settimana, oppure un personaggio o qualcosa di molto conosciuto. Più indizi ascolterete, però, più il premio si abbasserà. Tra poco vi faccio ascoltare il primo indizio, il numero verde per prenotarsi 800 24 00 24. Ed ecco appunto il primo indizio. Il sole è stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì che calmerei. Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più, e senza il vento, un vento freddo, dove le fronte le speranze buttai giù. Questa vita cos'è se manchi? Ecco, vedi, poi nelle canzoni la coppia è sempre fondamentale, Tommaso. Se non ci fossero le coppie, le canzoni non esisterebbero. Soprattutto a me fa impazzire Mina. Mina, a Mina va sempre male, cioè non c'è una canzone di Mina in cui dice sono felice, sono sposata. È lei che le sceglie le canzoni. È lei che le sceglie. Cioè, lei è sempre lì che piange sul divano, si butta dalla finestra, si taglia le unghie, fa qualunque cosa. Ma, signora, se li cerchi meglio questi uomini, sono uno peggio dell'altro, cioè in quanti anni sono che canta? Le piace raccontare queste situazioni. Le disgrazie, veramente. Le disgrazie. Davide da Parma, buona domenica. Buona domenica, Stefano. Ciao Davide. Allora, noi, questo è il primo indizio e ci sono 1000 euro per te, ammesso che tu mi dia una risposta giusta, però puoi anche ascoltare un altro indizio. Cosa vuoi fare? Sì, un altro indizio sicuramente, grazie. Allora, scendiamo a 500 euro. Milano vicino all'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride, si diverte, Milano a teatro, uno le da torero, Milano che quando piange, piange davvero, Milano carabinieri, polizia, che ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via. Milano a portata di mano ti fa una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano. Poi Milano e Benfica, Milano che fatica. Eccolo qui il secondo indizio, David. Beh, penso che tutto sia molto chiaro, sia il cantante che Lucio Dalla, sia la canzone che è Milano, ovviamente. David, prima avevamo Ma che freddo fa, nada, e Milano adesso, Lucio Dalla. Ancora sono in alto mare, però. Proviamo con un altro indizio. E non si può. Non si può, dovresti dare una risposta. Non saprei, non trovo nessun collegamento. Eppure c'è, come. Grazie David. Niente. Ciao, buona domenica. Ciao. Poi sono Lucio Dalla. Sì. Si è sposato con Vasco Rossi. Eh sì, l'abbiamo saputo. Alla fine ha ceduto, insomma, lui che è sempre stato un po' contrario al matrimonio, lui dice voglio un'unione civile, invece poi ha dovuto sposarsi, ma credo che sia una questione di pratica, no? Alla fine. È una questione pratica, evidentemente temeva che, sai, ormai Lucio Dalla ha fatto scuola purtroppo, perché è deceduto all'improvviso senza un testamento, senza aver lasciato ordine nelle sue cose, quindi la persona che si aspettava qualcosa, anche per tutto quello che ha fatto per Dalla, che è Marco, si è visto escluso, e come vuole la legge tutto passa ai parenti, parenti magari lontanissimi. Forse Vasco Rossi ha avuto un po' così un pensiero e ha detto vabbè, regolarizziamo le cose. Certo, può farlo perché appunto si è sposato con una signora con cui aveva una storia da moltissimi anni. Nel caso di Dalla non si poteva, ci sarebbe stata la strada dell'adozione magari. Sì, però forse ancora del testamento. Anche il testamento può essere impugnato, sì, questo lo dicevamo, certo. Capisci? Con l'adozione invece... Questa sicuro. È una problematica che insomma si sta discutendo. Si sta discutendo di questo? Ne stiamo discutendo noi adesso? Non so quanto possiamo risolvere. Ma come no? Adesso. Siamo fondamentali. Certo, no, dico della possibilità, perché poi alla fine le unioni di fatto servono anche questo, no? A regolarizzare una situazione. Sì, dove... servono, ma appunto nel caso Dalla. Sì, appunto. Nel caso Vasco Rossi, che ha fatto un po' anche troppa confusione, cioè, per lui è stato più facile, poteva andare anche come aveva detto anche Cruciani qualche giorno fa, sì. Proprio qua, cioè, poteva andare benissimo a sposarsi in comune senza farlo sapere a nessuno e avrebbe risolto la ha cosa. Fatto contenta la mamma, ecco, questo è alla ecco fine. Ha fatto la contenta penso la mamma di sì. Come diceva Venditti, gliele aveva promesso un anno fa e quindi ha dovuto, bisogna sempre far contente la mamma. Gli aggiornamenti sul traffico. Vabbè. Un mistero in 24 minuti. Antonio dalla provincia di Bologna. Ok. Ciao Antonio. Ciao. Allora, due indizi li abbiamo scoperti, ne abbiamo degli altri per te o ci dai una risposta? Ma io proverei a dare la risposta. Allora, ascoltiamo gli indizi che abbiamo scoperto fino a questo momento. Ok. Ma che freddo fa? Ma che freddo fa? Milano vicino all'Europa. Milano che banche, che cambi. Ecco, Tommaso Labranca ha proposto prima come soluzione del mistero il fatto che gli si fosse rotto il frigorifero. Ecco. Ho sentito freddo Milano, ho detto certo. Io sono a Milano, mi si è rotto il frigo e quella è la notizia. Però se fosse una notizia, è una notizia di cui i giornali hanno parlato, insomma. Ecco, purtroppo non faccio notizia da quel punto di vista. No, niente, quindi non può essere quella. Spero che Antonio abbia un'altra risposta, Antonio. Beh, se uno segue le notizie in questi giorni, Milano e il freddo, il tonfo delle borse... di venerdì. Per te questa è la risposta. Grazie Antonio. Ok. Sapremo al 24esimo minuto se la risposta è quella giusta. Paolo da Firenze. Pronto? Paolo, è Leda dalla provincia di Ancona. Pronto Leda? Sì. Eccoci sì. Qua, ciao Leda. Ciao, buongiorno. Allora, cosa vogliamo fare? Siamo ancora a 500 euro. Ma un altro indizio, io mi sono inserita, non, premetto, non conosco il gioco, quindi sto proprio annaspando. Va bene, allora in base agli indizi che stai ascoltando dovresti darmi una risposta che può essere una delle notizie della settimana oppure un personaggio o qualcosa di molto conosciuto. Questo è il terzo indizio. Stazione sotterranea Firenze, da quanto tempo siamo qua? La radio non dice niente, mi sa che per quest'anno non ci si fa. E sto sorridendo, amore, che m'aspettavi a cena mesi fa. Qui manca la luce per ore a causa dell'umidità. E mister Franchini, chissà com'è finito qua, quei suoi disuguali bambini, chissà la moglie come sarà. E ci si organizza il lavoro, mancano l'acqua e l'elettricità, nessuno lo dice ancora, ma insomma non è che non va in stazione, in stazione. Eccoci qua Leda, una canzone di Ivano Fossati che si intitola Stazione. Sì. Quindi allora, una notizia recente che colleghi, ma che freddo fa? Sì. Milano. Sì. Dalla. Sì. Firenze. Sì, Firenze, vabbè, tu hai preso Firenze perché hai preso una delle parole, però stazione è più giusta, dai, ti aiuto. Ecco, stazione. Leda. Sì. Non c'è Tommaso che sta scrivendo, non ho capito, cosa stai scrivendo Tommaso? Niente. Ah, perché ti vedo scrivere. Sto suggerendo a Leda. Però lei non lo vede, scusa. No, non puoi far niente. Sto suggerendo, ecco, benissimo. Vediamo un po', non saprei, a Naspo, vagolo, no. Niente, nessuna non risposta. Anche niente. Grazie Leda, ascolta, grazie che poi la risposta ti arriverà tra poco, grazie sì. Leda. Giovanni da Alessandria. Ciao. Ciao, scusa Giovanni, una cosa sola, Tommaso, essere isolazionista non è un po' snob? No. No, no. Ah, ecco, ha risposto anche Giovanni. Perché evidentemente anche Giovanni lo è. Non sei è un isolazionista, Giovanni? Non credo di essere isolazionista. No. Ho moglie e tre figli. Ah, beh, lei per niente sei. Anche tu sei un gruppista. Anche volendo non riesco. Assolutamente. Ma ecco, cerchi dei momenti di grande solitudine, però. Assolutamente sì. Ma li trovi dove? In bagno? Perché a volte si scrive in bagno perché è l'unico posto dove la gente non ti raggiunge in famiglia. No, esco fuori nell'orto. Trovo io. Ah, beh, è un orto. Ecco, al io quale faccio dedica. Il contrario. Io vado cosa a trovare fa? Una mia amica che ha appena avuto un bambino sì? E ha un marito un po' petulante, sì. Sto lì 10 minuti, poi scappo e dico come sono fortunato. Ah, perché tu non hai una moglie petulante, certo. Giovanni, cosa vuoi fare? Io i tre indizi, dopo il primo indizio avevo un'idea. Gli altri mi hanno depistato completamente. Rimango sulla mia prima idea, anche se è sicuramente sbagliata. Minos e l'anticiclone africano. No, ti dico già che non è, perché avevo già parlato di uno degli anticicloni prima. In qualche puntata fa, e quindi non mi sono ripetuto. Grazie, Giovanni. Niente. Mi dispiace, mannaggia. Ciao. Peccato. Marta da Verona. Ecco, sono rimasta spiazzata anch'io dagli altri indizi dopo il primo. Comunque, io mi sparo quello che mi viene in mente, dico Balotelli e la sua mamma. Chiuso. Un altro con la mamma, voglio dire, con il bacio alla mamma, eccolo qua. In questo senso, Marta, davvero, Marta, grazie, ciao. Ivan dalla provincia di Varese. Sì, buongiorno. Ciao Ivan. La notizia che penso che sia è quello della Freccia Bianca, il treno che faceva Venezia a Milano, che è rimasto aria condizionata, quindi è venuto fuori un po' di problemi sui passeggeri. Spero che non succeda a me. grazie Ivan, ciao, buona giornata. No, oggi non fa poi così caldo. 800 24. Ah, è finito. Oh, che peccato. Niente. Era, io ho detto indovinano sta settimana, invece niente da fare. Era facilissimo, ero sempre io che ho rischiato questa settimana di prendere la polmonite, perché in metropolitana, nella stazione della metropolitana di Milano, c'era l'aria condizionata a palla. No. È Samantha Cristoforetti, che è la prima astronauta italiana, volerà nello spazio nel 2014. Ma che freddo fa, perché si sta allenando al freddo per allenarsi a quello che l'aspetterà. Milano, sì, perché è nata a Milano, stazione perché andrà sulla stazione spaziale. E poi gli altri indizi sarebbero stati: tu sei l'unica donna per me, e nel blu dipinto di blu lei è anche la tuta blu, per cui insomma ci sareste arrivati sicuramente. Come no? Grazie Tommaso. Come no? Grazie Tommaso Labrante, grazie davvero di essere stato qui con me e con noi. Grazie a Margherita Ina in redazione, a Camillo Lauricella in regia. A voi buona domenica, ma soprattutto buona settimana. Ci sentiamo domenica prossima.